Rassegna Stampa Europa. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, bentornati alla Rassegna Stampa Europea. Non ci siamo sentiti per un paio di settimane, sono contenta di essere appunto tornata. E questa settimana inizierei con un articolo che ha trovato spazio su tanti giornali, anche economici, Financial Times, International Herald Tribune, però l'ho trovato anche su un giornale lussemburghese e quindi lo prendiamo da lì. Questo giornale si chiama Luxemburger Wort e parla della decisione presa il 24 luglio dalla Commissione Europea di ridurre le commissioni sui pagamenti con carta di credito o di debito. A quanti di voi sarà capitato, per esempio, di veder rifiutata la propria American Express o vedere qualcuno che storce il naso, perché notoriamente appunto è una di quelle che ha alcune commissioni più alte. Ma non è solo questo il problema secondo la Commissione Europea, sono tutte le commissioni a essere troppo alte, quindi delle carte di credito ma anche quelle di debito, cioè quelle che noi chiamiamo bancomat. E quindi, secondo i piani di Bruxelles, le commissioni pagate dalla banca del commerciante a quella dell'acquirente sarebbero limitate allo 0,2% per le transazioni effettuate con carta di credito e allo 0,3% per quelle con carta di credito. Al momento possono invece arrivare all'1,5%. Il disegno di legge della Commissione Europea, appunto, che sapete può diventare una vera e propria legge, cioè non è come qualcosa che sceglie il Parlamento Europeo, la Commissione Europea fa delle leggi che poi devono essere applicate. Quindi questo disegno di legge proibisce alle società come le compagnie aeree, per esempio, di imporre una sovrattassa in caso di prestazioni pagate con alcuni tipi di carta. E anche qui, quante volte l'avrete visto succedere, a me per esempio fa effetto quando sul sito di EasyJet, a seconda della carta con cui si paga, variano appunto le commissioni. Secondo il Luxemburger Wort, grazie a queste misure, che si applicherebbero alle società, alle grandi società Visa, Mastercard, tutte queste, i clienti e le aziende potrebbero risparmiare milioni. Attenzione però, c'è il trucco: i negoziati tra Bruxelles e il settore bancario potrebbero durare fino a 2 anni. Sappiamo che, insomma, quando si tratta di liberalizzare per davvero, poi si trovano di fatto tantissime resistenze. Sempre sui problemi che ci sono quando si prendono decisioni a livello europeo, torna all'International Herald Tribune, che a me piace molto perché è una, possiamo chiamarla l'edizione globale del New York Times. È un giornale molto snello, non proprio di commenti, ma che cerca di dare anche in prima pagina delle notizie che sembrano un po', chiamiamole, di pensiero laterale, cioè non sono strettamente legate alla cronaca, sono però sempre degli approfondimenti. Per esempio, mercoledì sulla prima pagina dell'International Herald Tribune c'era una foto molto grande su 4 colonne delle 6 che fanno la prima pagina di questo quotidiano, ed era una foto di una donna croata che si occupa nella sua serra, che appunto fa la coltivatrice, che veniva presa come esempio dei problemi. Il titolo era Troubles Follow Croatia to EU, cioè i problemi della Croazia se li ha portati nell'Unione Europea, un tema che avevamo toccato già qualche settimana fa con un altro articolo che appunto aveva chiesto a tante persone del paese che cosa si aspettavano dall'entrata nell'Unione Europea, e molti di loro avevano lucidamente detto che i problemi che già esistevano non sarebbero certo stati risolti o magari addirittura aggravati dal fatto di appunto entrare nell'Unione Europea. Passiamo invece alle Figaro, e anche in questo caso c'è una decisione che è ormai definitiva della Commissione Europea, anticipata da Le Figaro, appunto un quotidiano, diciamo, conservatore francese, e riguarda il gruppo francese Peugeot Citroën, che come la maggior parte dei gruppi europei, ne avevamo anche in questo caso parlato qualche settimana fa, è in fortissima crisi perché il numero delle immatricolazioni è crollato in tutta Europa, e anche il gruppo Peugeot, che magari è messo meglio di altri, però ha bisogno di aiuti. Quindi, secondo Le Figaro, il responsabile dell'antitrust europeo, Joaquin Almunia, anche in questo caso, no, gli aiuti della Comunità Europea devono essere calibrati in modo da non costituire una violazione delle leggi antitrust, quindi degli aiuti di Stato, in questo caso dello Stato europeo, che forse non esiste ma forse esiste, e devono essere appunto calibrati, perché sennò possono essere visti come una concorrenza sleale verso le aziende che questi aiuti non li ricevono perché non sono in crisi. Quindi scrive scrive Le Figaro che Almunia, citando Almunia, siamo vicini a una decisione finale e entrambe le parti hanno fatto un buon lavoro. L'antitrust europeo ha aperto un'inchiesta approfondita per verificare se il piano di ristrutturazione è compatibile con le regole degli aiuti di Stato. Prevede una garanzia pubblica fino a 7 miliardi data dalla filiale bancaria PSA Finance. Passiamo al Portogallo, perché in Portogallo, che è simile all'Italia per molti versi in questo momento dal punto di vista economico, cioè vive una situazione di grande difficoltà, forse la più grave insieme a quella della Grecia, poi ci sono la Spagna e poi ci siamo noi. Anche la percentuale di debito pubblico del Portogallo è molto simile alla nostra, è persino un po' più bassa, 127% contro il 130, oltre il 130, come abbiamo saputo settimana scorsa. Ma il Jornal de Negócios, che è un quotidiano economico portoghese, sì, anche qui, e qui sta l'analogia anche, parla della crisi di governo che c'è in questo momento nel paese, che non aiuta, non migliora certo le prospettive economiche, ma anzi allontana i portoghesi da una politica sempre più autoreferenziale. Se queste parole vi suonano familiari, è appunto la stessa analogia che ho colto io. Scrive il quotidiano portoghese: il paese è diviso tra austerity e crescita, anche secondo i suoi economisti, ma l'austerity è cosa certa, benché dosabile, non così la crescita. In tutto questo tempo assisteremo a nuovi tagli al budget, non dovranno essere rimesse in discussione le valutazioni della Troica, i tre paesi europei che dettano un po' le regole quando si tratta di aiutare un paese in maggiore difficoltà. Abbiamo bisogno di tempo e di non vedere i partiti esiliarsi su un pianeta immaginario dove non vivono persone in carne e ossa ma solo immagini. Nel gioco degli scacchi, conclude il quotidiano portoghese, la parola Zugzwang indica una situazione nella quale l'equilibrio tra due giocatori viene meno alla mossa successiva, a discapito di colui che muove. Chi gioca perde o si ritrova in una situazione peggiore rispetto a quella del suo avversario. Zugzwang è una parola tedesca. I partiti sono portoghesi e preferiscono giocare, preferiscono perdere tutto, anche se il fatto di perdere è soltanto una faccenda tra di loro, nella quale noi non siamo compresi, dalla quale, per l'esattezza, siamo del tutto esclusi. Però, cercando anche di vedere, sforzandoci di essere un po' ottimisti, vi cito invece un dato che è stato ripreso da almeno tre quotidiani, in questo caso Financial Times, Les Echos, che è il principale quotidiano economico francese di proprietà dell'uomo più ricco di Francia, che è Bernard Arnault, quel Bernard Arnault che sta un po' razziando i marchi europei. Due settimane fa si è comprato l'oro piana e ora pare abbia messo i suoi occhi anche su altri marchi. Comunque, insomma, possiede anche il maggior giornale economico europeo, e questi due giornali, in più anche per esempio la Berliner Zeitung, un quotidiano di Berlino, parlano di fine della recessione, o comunque la fine della recessione sarebbe finalmente in vista, perché dopo, insomma, non è la prima volta che si sente fare questo annuncio, in particolare anche in Italia è stato fatto più volte anche da membri di questo governo Letta. In questo caso c'è però un dato concreto, che è l'indice EMI dei direttori d'acquisto, che è un sondaggio effettuato presso 3.000 aziende in più paesi: Germania, Francia, Italia, Spagna, Austria, Irlanda, Grecia e Paesi Bassi, e che come molti indici economici cercano di prevedere, di anticipare l'evoluzione dell'economia. Ebbene, nel mese di giugno questo indice, che prende in considerazione la produzione e gli ordini, quindi appunto qualcosa in prospettiva che perciò dovrebbe indicare la fiducia che le persone che decidono hanno in quello che verrà, ha raggiunto 50,4 punti contro i 45,1 del 2012. Secondo la Berliner Zeitung, per esempio, è un dato sorprendente. Diversi fattori indicano che anche l'economia dei paesi dell'Europa meridionale, cioè per esempio la nostra, è in fase di ripresa, mentre la scissione del vecchio continente tra un nord stabile e un sud debole starebbe scomparendo. E a proposito di scissione, di differenze, vi segnalo un articolo da un altro quotidiano tedesco, la Süddeutsche Zeitung, che è il quotidiano di Monaco di Baviera, è un quotidiano molto progressista, e qui racconta una storia molto bella che forse in passato avevo letto anche sui quotidiani italiani, che è quella del progetto Desertec, che era un progetto lanciato e che si riprometteva di produrre energia elettrica nel Sahara e poi incanalarla verso l'Europa, una sorta di energia energia pulita che aveva, si era inserita in questo filone dell'economia verde, diciamo, e che aveva visto anche investitori importanti, sia finanziari da come Deutsche Bank o Munich Re, ma anche industriali come la Siemens e anche una cinquantina di aziende locali che avevano aderito al progetto. In realtà adesso il progetto ha molto rallentato e la Süddeutsche Zeitung, trovate questo articolo online in parte anche in inglese, cerca di capire perché e cerca anche di spiegare che l'idea resta buona e che forse tutti quelli che vogliono fare questi grandi investimenti unendo un po' il continente africano e quello europeo senza che ci siano sfruttamenti o disequilibri reciproci, dovrebbe appunto guardare al perché è fallito, forse troppo entusiasmo iniziale, forse sottovalutazione delle differenze culturali, forse troppa fretta di raggiungere degli obiettivi per rientrare dagli investimenti, insomma può essere una scuola. E a proposito di scuola, vi cito un ultimo articolo da Financial Times, e dove qualche settimana scorsa Financial Times, ma anche su altri quotidiani inglesi, sono apparse le conclusioni di uno studio commissionato dal governo inglese per capire se effettivamente essere parte dell'Unione Europea è un vantaggio o no. Ebbene, questa inchiesta ha dimostrato che per l'economia britannica l'appartenenza all'Unione comporta più benefici che svantaggi. E adesso per David Cameron, che è il primo ministro inglese, che è stato il primo a osare, forse dopo la Thatcher, a osare veramente dire chiaramente che si poteva pensare a uscire dall'Unione Europea. La Gran Bretagna, sapete, non è mai entrata nell'euro, però nell'Unione Europea c'è, è anzi un membro fondatore. Lui ha lanciato questo sasso a quella parte anche ampia di conservatori euroscettici del suo partito, e adesso però questa inchiesta commissionata dal suo governo dimostrerebbe che tutto sommato non conviene alla Gran Bretagna uscire dall'Unione Europea, scusatemi. Ci sarebbero altre segnalazioni come sempre, ma il tempo è finito. Ci sentiamo però sabato prossimo. Vi auguro un felice sabato e una felice domenica. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.